successivo rispetto alla trasmissione stessa. Mentre in questo momento si può seguire la diretta anche attraverso la pagina DJ Elettrodo. Salutiamo Raffaele Pezzella da Napoli, Alessandra qui da Roma. Dopo aver nominato Raffaele Pezzella, lo nominiamo di nuovo in relazione a questo Portugal Experimental Underground System Survey, una compilation che abbiamo analizzato ed apprezzato in parecchio tempo, in molte sezioni. Lo andiamo a chiudere oggi con una traccia di un artista dal nome particolare, come è particolare il nome della canzone stessa, del brano stesso. Lui si chiama Ulfr e la canzone è SGNDRPT, un codice alquanto misterioso. Salutiamo anche Stefano Like Wake qui da Roma e il buon Giovanni Lisi che ci sta ascoltando da Bari, dalla Puglia dunque. Ecco dunque Ulfr. Thank you. frequenze particolari ideate in questo brano da ULFR SGN DPRT, misteriosissimi acronimi. Artista proveniente dal Portogallo, esattamente da Porto, il tutto estratto dalla medesima e ottima compilation ideata da Raffaele Pezzella, H Sonologist, Portugal Experimental Underground System Survey. Entra con impeto Non Boyd Rice, un album di parecchi anni fa, se non erro circa 20, si chiama Might, uno degli album migliori per questo artista americano, e già ci stiamo ascoltando Force. Alla quale seguirà Dilation. Un saluto anche al buon Fulvio Biondo, Solar Lodge qui da Roma. Gabriel from London. kindly Roman emperor imagined that peace had settled down permanently upon the ancient world. Even then, the dissimulating assassin's dagger was sharpening for his throat. And now, a lower organism's dream of a world of lovers, of arbitration instead of hostility, of conciliation between rival carnivores. The mechanism of deletion is silently under construction that, when completed, will sweep them off the face of the earth. Foolish and blind or mad are they who think the struggle for existence has ended. It has only begun. This planet is in its infancy, not in its decrepitude. The end of all things is far off. The kingdom of heaven is not at hand. Incessant is the rivalry for supremacy among men, and manifold are its metamorphoses. Not for a single hour, for a single second, is there an armistice. Night and day the combat rages, and with renewed virulence on Sundays. When we fall asleep, and when we wake up, the clashing of weapons and the crunching of bones is sounding in our ears. Everywhere, the sword is uplifted on man. Everywhere, Cain's bludgeons cracking skulls. The hands of congregations of the faithful are red with the blood of the innocent. Yet how they boast of being washed clean in the blood of their brother, the Lamb. Eternal battle is the main condition upon which man holds his life tenure. When the brand is shattered in his hand, that is death or slavery. When his enemies are beneath his heel, that is life, honor, success. Indeed, the struggle between men is more pitiless and more unmerciful than among brutes. Brute beasts do not enslave, but permit the unfit to die off. Man enslaves his brother man on business principles. He makes fewer of the widow and the fatherless. The failures in life may be counted by millions, and everyone knows their horrible fate, their living death. Behold them being whirled into the blazing maw of the great iron furnaces. Overt action is not always needful for the drastic removal of lower organisms. Very often, if left alone, degenerates cremate themselves. If given control of governmental mechanisms, they immediately commence to grind one another into mincemeat, that is to say, into dividends. Il controverso e visionario non in questo Might, un album che uscì per le Mute nel 1995. So they, nature having already condemned them, they provide each other with palatable poisons. E ricordiamo, siamo su prove tecniche di trasmissione, quindi su Radio Onda Rossa 87.9 di in modulazione di frequenza. www.ondarossa.info è il nostro riferimento internet anche per lo streaming. E lo storico contatto telefonico 06491750. Intanto salutiamo il tenente Dan qui da Roma, Simona da Pistoia, Mario Lino Stancati dalla Calabria. Suggestioni etniche e tribalismo caratterizzano il suono di Siamgda, Mark Fischer, proveniente dalla Germania, con evidenti passioni per le congas e non solo, un amore per Muslingos. Il tutto si può trovare in questo Reborn, ultimo lavoro che esce per la Teutonica Anzen. Questo è Secret Servant, poi ci sarà Son of God e poi I Wish. si allarga il parterre con Antonella dalla Sicilia, Elvi da Mantova e noi ancora qui dalla Germania con il Bom Siabgda, Mark Fischer. Salutiamo anche Thomas Narverud from Norway, dalla Norvegia. Estremamente eclettico e produttivo questo Mark Fischer, in arte Siamgda. Un ultimo lavoro uscito qualche mese fa, quindi nel 2016, si chiama Reborn. da notare l'estrema abilità nell'unire l'elettronica classica per classica della scuola ante zen con questo tribalismo di matrice sostanzialmente asiatica con qualche influenza araba. Intanto salutiamo un'altra apparizione come la Madonna, ossia Chiara, e il buon amico Raffaele Trezza qui da Roma, entrambi. Rimaniamo con queste suggestioni tribali, con queste sonorità. Rimaniamo più o meno su questi suoni con un progetto storico proveniente dalla Spagna. Trattasi di Esplendor Geometrico. Esplendor Geometrico lavorano un po' nell'ombra, ma di tanto in tanto tirano fuori dei piccoli capolavori, come questo ultimo lavoro uscito proprio in febbraio del 2017, dal nome Fluida Meccanico. Si apre con Sindromo e poi ci ascoltiamo Tenante Laritmon. E Splendor Geometrico, un saluto anche al buon Emiliano Pietrini, Globo Oscuro, meraviglioso progetto italiano alquanto sperimentale che apprezziamo spesso in prove tecniche di trasmissione. E salutiamo Riccardo Martucci da Taranto, in arte Diaspora Psichica. Dalla Puglia anche Cordis Cinti Serpente, Giovanni Lisi, lo risalutiamo. Ancora da questo fluida meccanico e splendor geometrico. La data di uscita è 27 dicembre 2016, ma e quindi si può considerare uno dei primi lavori proprio di quest'anno, usciti quest'anno, e indubbiamente interessante come tradizione da splendor geometrico. E splendor geometrico viene dallo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica, uno scritto di Filippo Tommaso Marinetti. Fondatore Arturo Lanz, al quale si unirono Gabriele Riasa, Juan Carlos Sastre e Saverio Evangelista, quest'ultimo l'unico rimanente nel gruppo insieme ad Arturo Lanz. Una loro etichetta, la Geometic, e attualmente il buon Lanz vive, se non sbaglio, a Pechino, mentre Saverio Evangelista è originario della nostra città di Roma, non so se però risiede attualmente ancora qui oppure è disperso in qualche parte del mondo, non lo sappiamo. Dalla Spagna si va in Nord Europa, in Svezia, loro si chiamano Vit Fana, un unico lavoro, il recentissimo Irgang. Tre brevi estratti, Fasad, Sankt e Ingen Hütwag. Onda Rossa 87.9, prove tecniche di trasmissione, ancora Vitfana da questo Irgang. Ampio spazio, tra virgolette, meritato. Questa traccia è Ingen Utvag. Buone notizie dunque dalla Svezia, dalla Northern Electronics, una nuova etichetta, una recente realtà svedese che vede appunto annoverata tra le proprie file anche Vitfana di Ossian Olsson, quindi non a caso questo nome Ossian è probabilmente uno pseudonimo per questa, per questi contenuti effettivamente ossianici, ritualistici, misteriosi e cupi. Un unico lavoro, Irgang. E da un artista relativamente conosciuto andiamo ad ascoltare un maestro del genere. Trattasi di Steven Stapleton e i suoi Nurse with Wound. Abbiamo ritirato fuori un vecchissimo lavoro del 1980, Merseyville de Schwedt, diviso in due lunghe tracce, Dada Ex e Futurismo,